alla tua festa per farti la festa. Porta Grey Goose, una testa. Siamo in tre, tre bocci, atto di forza, finché non si apre la testa. Baby vai giù come il mesca, se vuoi il big fish pesca. Siamo grossi, grossi pesci. Robert De Niro, degli otte, c'ho pesci. Fuori una, fuori due, fuori tre. Finché siamo fuori uno, fuori due, fuori tre. Abiti neri, rappo come neri come ieri. OG, OG come vedi. Non ballo, boogie. Cifre grosse, tette grosse, big booty. Tu stai chiuso in casa chiusa. La tua tipa è chiusa, ma io il passepartout. Le chiavi di pietra gliela metto dietro. Nel retro, è già nel letto. Ed è Bunny Crew, Jared Leto. Lasciami il numero scritto che poi ti richiamo. Troia, troia. Tutti i megi sulle Nike, camo, mica no goia. Questo che rappo è una puta, la merda che sputa, dopo se la ingoia. Metto sul piatto che sono una tomba, sopra il piatto questa bomba. Bevo shampoo come se fossi in doccia, lei mi sogna brass mica moccia. Non dormo mai quando fuori è notte, sono nel locale, tu manda altre bocce. Voglio fare i soldi da un pezzo, con la neve cortina da un pezzo. Credimi dico solo verità, perché pare sia nel mezzo. Sto a casa in cucina e non faccio una torta. Ho dato due giri di chiave alla porta. Tutto controllato, chiedi ad Orwell. Mica batto il corner, trappo nel mio corner. Sto facendo soldi, oh yeah, oh yeah. Non mi frega un cazzo di ste troie. Io non ballo né giro una enorme. Il mio bro bombe, pure se non gioco. Questa merda chiama il coroner. I fra con le uova d'oro, cocco te. Schivo infami come le pallottole. Non ci frega un cazzo di ste zoccole, zoccole. Prima cosa, free Fabio. S3 black pimpato. Il mio rap blindato. Ether scoppia, no big babbo. Lo pesante fra big taco. Tipo NASCAR, un'altra vasca. Sto show una Mustang 5K. Faccio un colpo di stato. Sai che se sceno in Sardegna ovviamente sto a Cagliari, facciamo i botti. Robi in cucina ma non fai biscotti. Vuole fare Jerry Scotti, ehi. Vuole fare Jerry Scotti, ehi. Riso in bocca a questi stolti, ehi. Non è solo per i soldi, dipende anche da come ti comporti. Vesto nero militare, camo bello tattico. Low profile, ma il flow è fresco, bro, è l'inverno artico. Il mio bro fa finché è caldo il ferro, battilo. Tiene al caldo due uova di pterodattilo.